lungo da aspettare, andare a prendere la torta, e voglia. Hai capito, che cosa sedia è? Sicuro, sicuro! Mi ha Claudio, Buonasera, signor Claudio, buonasera. Ben entrato, tutto bello sparato. E domani c'è come la mia figlia, dunque domani la lasciamo giù a Davanari, anche la torta, una cosa e l'altra, hai capito, Manuel? È probabile che ci vediamo, noi ci vediamo. Avanti, Claudio! Buonasera, buonasera a todos. Ehi, vabbè. Anche quello è da fare, Maria, anche quello è da fare, dai. E beh, a Torino recuperato, dai, Emanuele. Era 10 minuti fa in frequenza con noi. Ma dove, qua in PMR? No, sul 10, sul 23. Ah, sul 23, vabbè, sul 23 sono entrato anch'io, ma non c'era lui. Va bene, va bene, sicuro, sicuro. Adesso vado a Maria da Ringaglio pure oggi, Maria. Era a morire, oggi anche oggi era a morire. Quando c'erano giù del posto, bisogna mi mettere il giubbottino leggero, il giubbotto estivo. Arrivo al centro storico e mi devo spogliare. Boh, proprio con la vampata del calore, caldo, voglio alzare il centro storico per fiamo di biscio, via, tutti in via che mi sono i chivi. Avanti, Manuel. E vabbè, non lo so che lì passa tutta la marmaglia, Maria. E vabbè, come vuoi, bisogna lavorare, Manuel, bisogna lavorare, bisogna produrre. Non è venuto di va. Avanti Claudio, il cane l'hai già portato, sì. Sì, già portato, è pronto anche la cena, però ho visto che è presto, ho detto, ah, vi faccio due chiacchiere, vi ho sentito. E va bene. Allora io stamattina sono uscito alle 7:30 di casa perché ho degli impegni di lavoro e quindi sono uscito alle 7:30. Ho visto la giornata la bella e mi sono preso la moto. Minchia papà, sono dovuto tornare indietro a mettermi il giubbottino, perché c'era un bel di freddo, ma un bel. Poi verso le 9:30, così quando sono rientrato, un callo che non si buriella, di nuovo a maniche corte. E la Madonna, oh, non sai più come vestirti, capito? Ma a che ora ci sei uscito la mattina? Le 7:30 sono uscito, 7:15. E anche se ora ancora va freddo, adesso gli orari, le cose stanno cambiando, le temperature, alle 7 c'è freschino. Ma vedi adesso si sta bene, io ho portato il cane, ma che cotte, c'è un po' di umidità, ma era tutta la strada bagnata, e cazzo mi ha piovuto, poi ho guardato la macchina ed era solo brina, capito? È scesa molta brina ieri notte, e anche stanotte sicuramente, e la mattina c'è molta umidità. E quindi ci vuole il giubbottino, ma come sto dicendo a Marino, che lui esce presto, no? Ci deve tutto assaccarrare un manzano ghizzo, anche se si muove, però c'è umidità, non siamo più giovincelli e quindi magari ti fa male. Poi a una certa ora ti devi scoprire perché muori dal caldo, capito Manu? È questo il problema. Non è la temperatura, è fredda di mattina presto, a metà mattinata è calda, primo pomeriggio ho visto 32 gradi, la sera scende di nuovo cazzo sui sotto i 25, capito? Avanti, oh, Marì. Così io conoscevo un deposito, c'è il giubbottino. C'è il giubbottino estivo, diciamo, leggero, però bisogna metterlo, come dove vanno, bisogna metterlo. Arrivo a Sassari, parcheggio al corso, dove sono le quattro colonne, c'è il bar di Marco, e ci sono la mattina, io e Marco, lui sta prendendo, io poi sto parcheggiando. E mi devo spogliare, perché lì, lo sai, sui palazzi, c'è lo storico che c'è caldo, ma caldo! Faccio un giro tondo, c'è da morire, c'è proprio quel caldo puzzinoso, proprio fuoso. Comunque è tutta umidità, è tutta brina, e io la macchina la mattina è tutta bagnata, però è solo umidità e basta. Solo che bisogna stare attenti, sono di bicicletta guai. Avanti, Manuel. E adesso a cambiare, adesso verso le 6:30, 7 c'è freschino ancora. Anzi, c'è freschino già. Prima, il mese scorso, a quell'ora il cazzo era un cazzo della Madonna, ma adesso la temperatura ha calato un po', Vai, Cla. Un attimo, Cla. Stavo pensando, Manuel, già ti do io un po' di roba mia, no? Tu hai quest'anno hai lievitato, visto che c'hai un po' di pancetta, hai lievitato. E facciamo lo scambio. Tiro le scarpe, il pantalone e la maglietta e te vieni a lavorare. Così io mi riposo. Cosa ne pensi, Manuel? Però facciamo a conto la confusione, mi. Diamovi, ne. Ehi, facciamo lo scambio. Avanti, Claudio. Ui, buonasera a tutti. Ciao, Bombolo. Buonasera, tu. Ben ascoltato. Ehi, uia. Luci, bisogna fare altro che balle, Gio. Per carità, no, no, la mattina c'è freschetto, c'è freschetto. Poi verso le 9:30 si apre, stamattina tutto coperto, proprio c'era molta umidità. Poi si è aperta la giornata e c'era un bel caldo. Avanti, Antu. Buonasera a tutti, vi stavo ascoltando, vi stavo. Lumanzano, un pochettino di freschetto c'è perché io esco molto presto la mattina. Ma... però poi già scalda poi. Beh, per forza scalda, perché ancora tutto settembre le temperature sono alte, però come diceva Manuele, la mattina ti devi coprire, capito? Mi ricordo anche l'anno scorso di questo periodo, era la stessa cosa. Sempre è stato così. Vai, Manuele. E adesso, man mano che andiamo, a quell'ora c'è fresco, bisogna avere un giubbottino, non bisogna uscire già a maniche gocce, anche in moto ho dei gancareggi, verso le 8:30 inizia a scaldare, ancora adesso esci in moto va, c'è freschino, si sta da Dio col giubbotto. Ma no, a mani dei gocci. Vai, Antu. Tu non lo senti, Emanuele? Ma il parito, Emanuele. No, ti ha rilanciato, ma non lo senti? No, non l'ho sentito in quel passaggio. E io, vabbè, c'ho un antenino piccolino, un pochettino. Ma chi è l'altro? Marino, Sono io, Antu, ben sentito, ciao. Già sono io. Già sta arrivando abbastanza bene. Poc'anzi sei sparito, adesso sei rinato. Dai, avanti, Antu. Mi ascolti a me, sì? Sì che ti ascolto, Mari. Sei lo zio di Giuseppe, no? Esatto, già ci conosciamo, dai. Sei nato a Tirossi, ti ha giubilato in braccio e già siamo tra mezzo di me. Abitavi nel portone del Pesciolino, o no? Voglia che mi rammento di te. Era ora. Allora parimo due bombole, parimo va. Avevamo levitato, peggio di Emanuele. Ti ho visto, Antu, stamattina col motocarro verde. Non ne ho io motocarro verde. No, mi pari tu. No, no. Ah, sa tu butti che. No, sa chi era, Emanuele. E il fratello mio collega è Biancaneve, che porta che c'è l'antenna e c'è una baracchino in moto e trasmetto fra il negozio e la moto, capito? Sì, Biancaneve, lo conosci? Ah, non conosco Biancaneve, astrua, ti vuoi a piombo. Biancaneve l'ha fatto con me, quello lì è il fratello, ci conosciamo una vita, caspita. Beh, da roba, è un pezzo di 48 Biancaneve, però. Sì, lo conosco vecchia. È un pezzo di 48, è peggio di Emanuele. Avanti, Claudio. A Biancaneve ne ho sentito parlare io, ma è collega tuo. È il mio collega, è Nicola, e c'è il fratello quasi preciso a lui, lavora, anche lui lavorava nelle bombole. E fratello, lui è entrato con noi a lavorare, è entrato, c'è qualche anno prima di me, da qualche uno o due anni prima di me. E fratello lavora con le bombole lo stesso, e c'hanno un apparecchio in moto, capito? C'è un apparecchio in moto e trasmettono, non so che frequenza è, una frequenza che dà le poste e così via. E allora c'è quello che conosco io, dai. Avanti, Manuele. E sinceramente l'ho visto di sfuggita, mi parlo due, da giovato, ma Michio e Antonio Bombolo. Vai, Antu. E vabbè, non esiste nulla. Un attimo, Antonio, ti chiedo scusa. Ma non è chi è quello che abbiamo visto stamattina? Che trovi? Dove è Antonio? Ehi, quello col motocarro. Invece non è lui. Ha detto che non è Edu. Maria Edu. Invece Biancaneve, dai, avanti, Antu. Avanti. Ci abbiamo il Fiat Strada bianco con la scritta, con il numero di telefono, con la scritta gialla nei fianchi. E io già lo so come sei, ma sei passato, Emanuele stamattina, e sei passato, è passato la moto proprio dove abita Emanuele, vicino a Gio Maria, e Emanuele mi ha detto, mi è Antonio, ma io ho detto, ma non ti ho visto bene, ma non so se è Antonio o è Biancaneve, avanti Antonio. No, non sono io, no. Quello lì, no, ma forse se l'hai vista la Tidozzi se l'hai vista la Tidozzi quella moto, perché abita lì, mi pare che sia, non è Antonello, Gianuario Botica mi pare che sia. è passato vicino a Ex-Cop, vicino a Gio Maria è passato, e boh, non lo so. Bene, ma tu dove vi siete trasferiti? Su a Via Milano voi o no? Cappa, siamo lì. Ok, dai. Avanti, Claudio. Sì, ma già c'è da un bel Via Milano, Antonio. Ehi, cazzo, è una vita, deposito è stato sempre lì. No, era in Via Diaz pure. Io conoscevo Via Diaz veramente, Claudio. Via Milano non l'ho mai conosciuto, eh. Oh, poi se c'avevo anche Via Milano non lo so. Avanti, Claudio. Vabbè, io lavoro per Via Sproni, a Vittorio l'ho conosciuto lì, ma c'era deposito e negozio. E dietro c'era l'autolavaggio, già lo so, perché sopra lì abitava la sorella e mia suocera, Simula, capito? Quindi lo so. Però è da un bel di tempo che sono lì loro, perlomeno, io mi ricordo così. Vai, Emanuele! Ok, dai, ne approfitto per chiudere, che vado a mangiare qualcosa e poi mi guardo la televisione. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Marino, ce la riascoltiamo, dai, tutte alle migliori. Vai, vai, vai, vai. A te, Marino. Ok, dai, ne approfitto anch'io, ho visto c'è mio nipote che... Ho visto che mi sta guardando dalla finestra, ok, dai, ne approfitto e me ne vado anch'io, là. Ciao Emanuele, a domani se ci vediamo, ciao Claudio, mi hai sentito, buona cena, saluto in casa, ciao Anto, alle prossime, ci sentiamo, avanti Claudio. Ehi, dai, vi saluto anch'io che è pronta la cena, ciao Anto, al limite a dopo. Cappa, ascolta Marie, ma la conoscevi tu a mia madre? Ah, la conoscevo, gira gira, la conoscevo sì. E l'hai saputo che non c'è più? Ho sentito così, io poco scendo giù a Terrosse, lo sai, io abito in campagna e ho fatto dal monte a campagna, capito? Dunque scendo poche volte alla Terrosse. Me l'ha detto, chi me l'ha detto? Un amico vicino me l'ha detto. Quanto è morto? Ma la volta è morto, no? Quasi 3 anni. Figurati. Perché stavo parlando e più o meno mi ha detto, sai che è morta la signora, così, così, così. Io sono rimasto, insomma, quando uno è da fuori una cosa all'altra, purtroppo. E tu adesso, chi ci abita in quella casa adesso, Antu? Mio padre ci abita. Ah, è solo oppure tu sei con lui, no? Tu non sei con lui, abiti con suo figlio tuo, così è. Abito da un'altra parte, abito a Sassariveccio, abito. Ho capito, là, abita solo tuo padre. Vabbè, purtroppo Anto, siamo in passaggio, già lo sai, i miei sono andati via presto, una ha 57 anni, mia madre, e babbo quasi ne aveva quasi 58, figurati, e tutte e due, neanche 6 mesi di differenza, ne ho 85. Io mi sono sposato in maggio, 84, dopo la mamma è morta 85 in giugno, e babbo stesso anno in dicembre, purtroppo. La vita continua, siamo di passaggio, avanti, al tuo così chiuso, dai. Cappa, è già ne travagliato, mamma mia. Ok, dai. Ciao Marie, ce la sentiamo alle prossimine. Ok, ciao Antonio, ciao Tori, dai. Buona carica, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutte e due, a più tardi, se no a domani, ciao. Ok, ciao Claudio, ciao Tori, ciao.